Matt Boys. Passione. Fra. Rancore. Vizio. Odio. Esperienze. Prime bombe a mano su una traccia. Andre, Simo. X-Tape. Al rintocco delle campane. Scatenare la fama. Bomba. Direttamente dalle strade di corsa. X. X-Tape. Resto insieme alla mia gente. Questa è la mia stella.